Pane, burro e rock and roll, sono le 8 precise. Seconda ora. Pane, burro e rock and roll. Tiriamo dritti fino alle 9, ce la facciamo. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Per tutti quelli che si svegliano, fortunelli, solo adesso, dai. Qualcosa di dolce. I Police, ieri sera dal vivo a Torino, abbiamo ascoltato nella prima ora il mitico Luca da Milano, che ieri sera era a Torino e che questa mattina, proprio nei primi minuti di diretta, già era sveglio, pronto a raccontarcelo. Questa è la sveglia di quest'oggi, Walking on the Moon. Buona giornata. Altro che tracu tracu, virtuosismi qui. Eh beh, il buon Copland, Walking on the Moon, Police, Pipidop, Pipidop, Pipidop. Allora andiamo un po' a vedere che cosa combinate al 335 100 7777. Qui l'amico genovese si lamenta. Sul secolo di Genova c'è scritto Message in a Bottle con il suo reggae. Ma a noi non sembra un pezzo reggae. Ma dai, sì ragazzi, queste cose non dovete prendervela però. E spesso e volentieri si accosta al nome di Police anche il genere reggae, in qualche modo anche in questa Walking on the Moon. Finisce in levare e quando c'è il levare, poi sono giornalisti, dai, non ve la prendete, ragazzi. Facciamo i veri rocker in queste cose e voltiamoci dall'altra parte in maniera così no? Facciamo che siamo superiori, ecco. Buongiorno, oggi compio 39 anni, Elena. Auguroni, tra poco tra l'altro dobbiamo fare anche i compleanni del giorno. Abbiamo approfittato per salutare anche te. Chiediamo autorizzazione per fondare gruppo d'ascolto Elettronici Fulminati in Ritardo Fisso, firmato Giovanni. L'avete già fatto? Lo avete appena fatto. Abbiamo Daniele da Milano che chiede: secondo voi Laulin è davvero rocker o i veri rocker sopportano il mal di testa da raffreddore? Guarda Daniele, non sai quanto ti sono vicino. Non ho Aulin tutta la vita, vai, vai, tranquillo. No, da rocker non vuol dire masochisti che dobbiamo stare qui col mal di testa. No, no, no, va bene, va bene. Allora, proseguo. C'è il nostro tassista un po' preoccupato dal nostro appello di ascoltare Rock FM sia in streaming che in radio, perché dice: guardate che lo streaming ha qualche secondo di ritardo, quindi è un casino perché sento due cose diverse. E Tino, ma era proprio quello che bisognava fare, riuscire ad ascoltare le trasmissioni che si incastrano. Lo so che è difficile, non è mai facile essere dei veri rocker, no? Allora, abbiamo anche Viola. Ho visto che sul sito dell'Alcatraz ci sono dei coupon da stampare per avere delle riduzioni sul biglietto d'ingresso per sabato sera, ma io mostrerò la mia patente da vero rocker e mi faranno entrare gratis. Non credi? No, Viola, non credo. Non credo proprio, e io giuro non c'entrerò veramente nulla. Io prometto ai patentati che organizzeremo qualcosa solo per voi, ma per quanto riguarda la festa di sabato, che è una festa ufficiale di tutta la radio, non posso fare veramente nulla. Voi portatevela la patente da vero rocker, poi dentro magari in serata ci inventeremo qualcosa, ma per l'ingresso veramente non mettetevi a questionare all'ingresso con le patenti da vero rocker, che è la volta buona che mi cacciano pure dall'Alcatraz, per favore. Non facciamo le persone civili, eh? Non fatevi venire in testa strane idee. Scaricatevi la riduzione con la ufficiale e poi se ne parla dentro in serata. Mannaggia. Abbiamo creato dei mostri, ma era ovvio che creavamo dei mostri. Ultimo SMS importante, dicevamo c'è un radioascoltatore che c'ha il cuore che fa croc e noi non possiamo far finta di nulla. Scrive, cambia il jingle che è meglio, se no ci rimane male. Lui si firma Enrico, rocker di Genova. Semplicemente il suo messaggio recita così: io invece ieri ho rivisto Franca. Non mi importa niente del marito, io la amo sempre. Se sente la radio vorrei lo sentisse. Grazie, Enrico, rocker da Genova. Sì, c'è poco da fare, yatta, tira, tira, tira, ma insomma. Enrico, siamo in squadra con te! che spesa hai fatto! E tu sei già qui? Prendo solo una merendina e vado! Questi ragazzi viverebbero solo di merendine. E che male c'è? Basta scegliere quelle giuste, come questa. Pane, burro e rock and roll. Ha tutta la semplicità di un pane fatto con grano, cereali e la bontà naturale della marmellata di frutta. E poi è anche conveniente. Pane, burro e rock and roll. Nutre bene con la sua semplicità. In occasione di mercoledì 3 ottobre, sì, alle Fauste ricorrenze. I compleanni del giorno. I buon compleanno. Che bello, che bello. I tanti auguri. Partiamo da un uomo che è nato il suo stesso anno, 1954. E dunque un mitico Steve Ray Vaughan. Steve Ray Vaughan. Si dice Vaughan all'italiana, colpo di scena, sì, ma io che sono americano so benissimo che gli anglosassoni dicono Steve Ray Vaughan. Scomparso poi purtroppo nel 90. In un incidente aereo, lei ricordava? Ricordavo purtroppo il fattaggio. Passiamo a una bellezza di casa nostra. La showgirl italiana Carmen Russo, nata nel 1959. Fatevi i vostri porchi calcoli. Nel 1962 invece la volta di Tommy Lee, celebre batterista dei Motley Crue, amante di Pamela Anderson. Oddio, se lo ricorda. Un grande uomo dunque, tutto il nostro rispetto per forte. Tommy Lee. Passiamo a una bellezza che le piacerebbe sicuramente avere qui al posto mio. Cantante Gwen Stefani, nasceva nel 69. Cantante statunitense Gwen Stefani. Nel 1981 invece abbiamo aiuto qua in ciampo, brava, sicuramente male, sì, il calciatore svedese Zlatan Ibrahom, Ibrahimo, Ibrahomic, Ibrahimovic, calciatore. Fantastico. Sapevo perfettamente, sto facendo la gag. Zlatan Ibrahimovic, calciatore svedese, mentre... Chiosiamo con un'altra bellezza americana, nasceva nell'84 la bellissima Ashley Simpson. Cantante statunitense che, ahimè, per lei, dico, ai lei, per meglio dire, sì, non ha nulla a che vedere con la famiglia Simpson. No, nulla. È la famiglia più amata dagli americani. E ad Antoni. Vivi Simpson! To say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only live. Our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Non riesco più ad ascoltare i classici senza pensare come potrebbero suonare in italiano, eh? Freak, Light My Fire, guarda che un filo ci starebbe. È meglio se mi tolgo queste brutte idee dalla testa subito, se no lo so già, va a finire molto male. Velocemente, una errata corrige. L'Ariele chiede scusa, ho risposto qualche minuto fa a un radioascoltatore milanese che mi chiedeva: ho il mal di testa, da vero rocker me lo devo tenere o posso prendere un medicinale? E in maniera molto provinciale, che io sono un DJ provinciale, ho detto che... cioè ho letto, lui proponeva l'Aulin, ecco. Ho marea di SMS di gente che mi sgrida facendomi notare di stare attenti, che non è il massimo prendere quel medicinale lì, ci sono voci brutte su quel medicinale, quindi io insomma, l'idea comunque era: ho mal di testa, prendo qualcosa o me lo tengo? Prendi qualcosa, quello era il consiglio. Qualcuno addirittura dice: Laura, guarda che per il fegato è meglio il chinotto. Va bene, grazie delle segnalazioni. Un saluto ad Andrea che commenta semplicemente: e quei bastardi che hanno ucciso gli orsi, mannaggia, oh. Lo fareste un ingrosso in bocca al lupo al nostro grande amico, nonché grande batterista Ricky, che stamattina ha l'ultimo esame dell'università. Gabi e Viola, è stato fatto un abbraccio a Filippo, che ci crede un sacco in questo. Cioè, ci crede un sacco che io vada a correre domenica. Filippo, poi però non rimanerci male se non vengo a correre. Io sono contento di far sapere anche oggi che domenica c'è la Terry Fox Run. Però Filippo, guarda, veramente, non rimanerci troppo male. Intanto ti ringrazio perché ieri mi ha portato la spiegazione di tutta la corsa. Tra l'altro, quasi quasi, Filippo, magari venerdì facciamo uno spazietto dedicato. Ci racconti un po' che cosa succede domenica qui a Milano. Ah, che roba, ragazzi. Che giornata. Io sono imbarazzato perché ci sono un po' di messaggi che devo per forza approfondire. Uno è un neopatentato, il numero 147, che propone un boicottaggio. Cioè, un messaggio dove propone azioni di gruppo per i neopatentati. Ragazzi, la cosa ci scoppia tra le mani, io me lo sento. La cosa va a finire male. E l'altro invece è una mail di un altro neopatentato, che ormai si sono montati la testa i neopatentati, il 110, che segnala una cosa effettivamente inquietante. Sembra ci siano delle patenti davvero rocker finte, ma ne parleremo più avanti nel corso della trasmissione. Tra pochi minuti vi ricordo l'appuntamento classico, fisso, col test attitudinale. Ma adesso il Duca, ed è subito amore nello spazio. Ah, senti che bella sta canzone. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to lead the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Something wrong, can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me? Veniamo quest'oggi a un nuovo test attitudinale. Io che non vedevo l'ora. Che vi permetterà di acquistare nuovi punti, nuovi bollini, nuove figurine, nuove chance. Nuove figurine mi piaceva molto. Bravo. Per la vostra patente di autentico rocker. Non sto nella pelle. Voglio fare la domanda del test attitudinale di quest'oggi. Posso? Naturalmente no. No, perché la prego. La faccio io questa la volta. La faccia lei allora. No, sì. No, la prego, la insisto. Io scherzavo. Tocca a lei, DJ Ariele. È molto semplice quest'oggi. Una domanda veloce ma intensa. Che cosa credete possano essere le pantere nere? Me lo lasci dire. Sì. Oggi se ne parla poco, cioè sì, se ne parla solo storicizzando, ma negli anni 60 e 70 sono state famosissime le pantere nere. Non dia troppi aiuti. Le pantere nere. Tre ipotesi come al solito. Ipotesi A. Col termine pantere nere si indica una squadra di bodyguard ingaggiata alla fine degli anni 60 dai Rolling Stones per svolgere il servizio d'ordine nel corso del loro primo tour mondiale. Vennero chiamati così per i loro modi bruschi, un po' ruvidi, e per la loro divisa completamente scura, cioè nera. Erano forse queste le pantere nere? Seconda ipotesi, risposta B. Col termine pantere nere ci riferiamo alla storica organizzazione rivoluzionaria dei neri degli Stati Uniti, nata dalla contestazione della fine degli anni 60. E sono forse queste le pantere nere? Ma vedremo. Ipotesi C. Pantere nere è il nome con cui vengono indicati gli esemplari di colore nero di alcune specie di felini. Le pantere nere. Sì, le pantere nere. Non diamo aiuti? La soluzione? Come al solito dopo, la risposta ve la diamo tra poco.